Καλό, σκάμισε WhatsApp, μα λέει, ο φαρμάτσι, αβάλω κόλα, κόλκος, ότι κορμέσια, ζωρή μια μάνα, και μάω στάμπα τα Sì, ma io quando ando in farmacia pari ando a fare spesa, che c'è pure il cellulare ando. Beh, stampo qua, c'ho la stampante laser, stampo le ricette e gli porto le ricette già stampate. E le manda via email la mia dottoressa. Mamma mi farà tutto loro, me la fai chiusa. Non è che tutti sono obbligati a avere il computer la stampante, se uno è anziano già fa stampate, ciao. Ci sono certi anziani che ne sanno più di noi. Vabbè, io vi lascio, rimango in ascolto che devo mangiare. Sentiamo le prossime. Ciao, Lattari, mi stacca anche io, dai, che domani mattina mi devo alzare alle 5. Ciao, da Marcolino, Gianni, ce la riascoltiamo, dai, vai già. Ciao, aspetta, ciao, ci sentiamo, dai. Vabbè, la medicina ce l'è data, avanti Marco, poi vi mando una cosa. Ehi, ciao Natalino, dai, buon tutto, sì, già lo vedo le medicine, anche nella foto dello smonito si vede le medicine, tachipirina, poi quell'altro, anche il Viagra c'ha sul tavolo, Gesù! Guardate sempre di cose brutte, guarda quello che ho mandato io, che l'ho fatta adesso. No, già non c'era il Viagra. Allora, aspetta che guardo. Ciao Manuel, anche a te, dai, buon proseguimento. Diamo una foto. Questa è una torta, ma budino al cioccolato, roba del genere. Eia, con lo stampino, che belli quegli stampini. Mia zia con la vecchia ce l'aveva, mi pare in rame, può essere. Cioè non esisteva la plastica ancora, non si usava. Poi ce l'ho la miera, ce l'ho la mirino. Ce l'ho, non è metallo il mio, non è di quelli di te racconta. Vedi, queste cose mi ricordano l'infanzia, perché lei lo faceva così, con gli stampini, lo faceva in casa, ci metteva, certe volte quando era al crencalam, ci metteva anche scorze d'arancia in mezzo, limone, era un bijou. L'uovo, anche ci metteva il pollo e l'uovo, veniva molto nutriente, poi era bello anche denso, bello condensato, non era troppo molliccio. Prova. Sì, c'è questo a posto. E beh, il cagiù, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova. Qua, scusa, stavo ascoltando delle cover che ho fatto. Eia. No, ma già hai capito come lo faceva, ci metteva l'uovo, certe volte anche le scorze di limone o arancia, e veniva una bontà. Oh, una volta io ho visto in questo cartone animato giapponese di samurai, di roba antica, non so, sai quelle cose giapponesi, e questo che faceva dei budini di miele tondi, delle palline tonde, ho detto come cavolo fa a farle tonde, poi me l'ho inventato un metodo e le avevo fatte tonde anch'io, venivano queste palline di budino un po' condensato, anche io ci mettevo l'uovo eccetera, tonde, perfettamente tonde, sembravano come dei bulbi oculari. Ma io avevo mamma che ce le faceva in tutte le forme, e quindi ho proseguito a farlo a miei figli, perché i miei figli le piacciono come li faccio io, non li fanno tutti uguali i budini, e poi rimane quello compatto, non rimane molliccio, quello compatto, quando lo prendi col cucchiaino non ti li pare. Così è buono. Così è buono, bello compatto, poi quello non so se tu metti l'uovo, il rosso è l'uovo, che diventa bello nutriente. Che ora abbiamo fatto? Le 7? Quasi. Le 7 sono meno 2 minuti. Mi pare che lo lascio così l'apparato, già bene a fuggi, già da finisira. Pensato di prendermi l'antenna nuova. Ma l'antenna è nuova, c'è solo da tarare un muloncino mollato, non è un peccato, capito già? Lo so, ma adesso vediamo. Adesso mi è piaciuto la TV 2001. Guarda, se cambi la 5 ottavi del tetto, prendi, regalati, fatti un regalo, regalati, non compra, regalati una Grazioli. Credo che sia il top del top. La paghi, però è tutto materiale di prima scelta. Bisogna stare attento assemblandola, non perdere i pezzi, perché sono tanti. No, questa qua non ha niente da guidare alla Grazioli. Questa qua è tutta l'acciaio sotto. È fatta bene questa antenna, tu non so se l'hai mai vista. È anni che l'hanno fatta questa antenna qua, poi l'hanno sempre migliorata. E poi le lemme sono tutte buone, vedi la TV 2001 che hanno delle migliorate alla farmacia, le fanno bene le lemme. Ah, sicuramente è successo che col vento si è mollato qualche bulloncino della molla ed è scesa, vuole risalita, è stretto di nuovo e va alla grande, non è che... solo che bisogna che ci sia qualcuno che salga, perché io non posso farlo, non me la sento, perché sai cosa mi succede, prendo l'equilibrio, mi viene capogiro ogni tanto, non me la sento. Un po' così sono io, però non è vertigine, vedi? Credo che sia proprio acrofobia, paura delle altezze. Non mi trovo a mio agio, non c'è poco da fare, è una cosa che ho sempre avuto. A me mi è successo perché andavamo in questo palazzo in costruzione, c'era una montagna di sabbia sotto e tutti si buttavano sopra questa montagna, dal primo piano si tuffavano e cadevano sulla montagna della sabbia. Io avevo paura, la verità, non volevo farlo, questo campo mi ha spinto là dietro. Già ci sono sceso, però poi dal momento ho avuto sempre paura delle altezze. Anzi già, te ne racconto una in breve. Io un periodo non avevo paura delle altezze perché diciamo che avevo preso un qualcosa per migliorare l'umore, era un farmaco che migliorava l'umore, capisci? Beh, dai, diciamo, per non dire che uno era un po' giù depresso, miglioravo l'umore, però questo farmaco ho notato che mi aveva tolto la paura dell'altezza, per cui quando con un ex CB andavamo a piazzare antenne TV sui palazzi alti, io andavo sul bordo del cornicione in piedi e guardavo giù, sbirciavo giù, cosa che io né ora né prima ancora avrei mai nemmeno lontanamente fatto, e non avevo paura. In poche parole, questi farmaci stabilizzanti dell'umore, chiamiamoli così, infatti lo era, ti tolgono, cioè sono pericolosi perché non è un comportamento normale, come che ti tolgono i freni inibitori, cose del genere. Quindi se ti vuoi andare un po' ti butti senza problemi. A proposito, buttarsi la botte, l'altro giorno ero su internet e lo stavo fremendo, Marco. Questa ragazza in diretta con Pino Grazioli, non so se tu Pino Grazioli l'hai mai seguito, è un giornalista napoletano. No. Allora, praticamente questo Pino Grazioli, oltre a fare il giornalista, è un buonaccione, aiuta i poveri, aiuta tutte le persone che hanno bisogno, eccetera. E aiuta proprio lui di tasca. Ho telefonato in redazione questa ragazza Gigi e gli ha detto che si stava buttando dal ponte e praticamente lui ha fatto di tutto per convincerla, lei gli ha detto che c'era il compagno che la trattava male, la figlia che la picchiava, che questo e quell'altro, e lui nel mentre il suo operatore ha chiamato i carabinieri di Sassari e sono andati loro e meno male l'hanno beccata, l'hanno presa. Quello è brutto da vedere e da sentire. Mi ricorda qualcosa di quella donna che qualche anno fa a Ponte Rosello, avevano cercato anche di trattenerla dal giubbotto, però poi si è sfilato il giubbotto, si è sfilata lì dal giubbotto e è finita giù. Comunque vabbè, fatto stare, la morale era quella che alcuni farmaci sì, sono strani perché diciamo alterano i tuoi così normali, cioè io non mi sarei mai sognato di camminare sul cornicione e sbirciare sotto anche con nonchalance, capito? È come che ti togliesse anche la paura, mi capito? È una roba ambigua, meglio non te la rifatti, poi l'ho smesso e tanto non serve, l'umore rimaneva brutto lo stesso, capito? Se uno è giù di morale rimane giù di morale, allora tanto vale togliere tutta quella mondezza, perché è mondezza, eh. Io sono tranquillato, vi ho detto chiaramente, cioè, No, è un'altra categoria, dai. Però è roba che altera le normali abitudini, tutto, capito? Non buono, no good. Non ti pare essere te stesso, eh? Eh sì, per altre anche cose te ne accorgi, cioè. E quindi meglio non. Se roba l'onfia, dai, c'ha mille effetti collaterali con la roba, per carità di Dio, guarda. Te lo dico per esperienza. Niente, no, non fa rettare? Certo. No, ti dirò, quello proprio no, come effetto collaterale no. Io ho sempre il presentatarm, adesso non lo scariamo nel volgare, il presentatarm l'ho sempre avuto. Vabbè, ma se tu le presenti, non le presenta nessuno, le altre. Vabbè, passa il tempo, eccetera. No, non deve passare così, non ti deve sfuggire di mano. Sto asciuttando, Gianni, devo andare a bere. Mi sa che chiudiamo, magari. Non so perché, io, come sentite voi, sono entrato al volo, però c'avevo una cosa del computer aperta da sbrigare e adesso me la sbrigo, dai. Così tu magari porti il cane, te ne sbrighi prima. Poi già sentiremo quando capita, ok? Vabbè, è interessante che sto parlando, dai, perché già mi stavo prendendo l'Alzheimer perché non riuscivo a sentire nessuno, poi ho dovuto cambiare il piede. L'unica cosa che io sono con volume basso, quindi lo sento appena, ma sento come una specie di alternatina, una specie di una cosa così, me. E devo buttare stazionarie, sicuramente. Allora, prova a premere il portante muta che alza il volume. Sì, sento questa specie di... E adesso me l'hanno già detto, ma cosa ci devo fare, gli abiti le luci. Oh, guarda. Poi quando questa roba elettronica comincia a dare... erano sulle scatole, quando comincia a fare rumorini, cose, malfunzionamenti. È una rogna. Poi anche queste storie di baracchini, non ne ripara nessuno, oppure ci devi uscire lì a Ovoda, dove era quel tipo, quello che ripara i baracchini. Un nome di un paese che manco mi ricordo, cioè. Scusate che tutto. Antonello, stavamo parlando male di te. Sì, quando mi parlo male vuol dire che sto bene. Dice Paolo. Ho tutti i baracchini, non ho villa. Ma oggi sono stato uguale, per Mario, un capaiato, stavo a lui, 17, l'uovo dopo, in mezzo al PL, capito? Adesso quello già lo tengo da parte. La moto è Midland, quel tipo di integrato, audio. Eia, no, stavo valutando Gianni, se interpellarti per un'antenna. Però io gli ho detto un consiglio, ho detto Antonello ce la fa venire, farlo venire o di mattina o di primo pomeriggio, almeno è sobrio. Semmai è il contrario, perché secondo che te postali al centro storico sia tranquillo che mezzo io devi bere qualcosa di forte. Solo col cazzo che ci stavi su. No, ma lui c'ha il terrazzo, è come il mio, bello, ci puoi coricare, c'è spazio per lavorare, capito? Che c'ha un piccolo, l'antenna c'ha un po' di stazionaria, non si capisce il perché, o si è mollata la molla, il dadino che tiene la molla, quindi gli ha alterato le stazionarie. Ah, quella stai dicendo, quella di Gianni, 5 palazzo ci sono già stato io, ho pensato anche alla televisione io, 5 palazzo, dove lui, tanti anni, quando lavoravo alla Rosai, figurati, so come è fatto, c'è la ghiaia, c'è, nel petto. Ma tu hai visto solo che le stazionarie adesso ce l'ho a due. Mi colpo così, era un euro di stazionare, ho sembrato la mola con il vento. Sembra strano che sia mollata la molla. Tu mi sembra che la Superlame, così è. Con la Superlame, sì. È molto difficilissimo lì quella molla comunque della Superlame. Molto molto difficile. La Mantova sì, ma la Superlame è molto difficile. Secondo me è PL. E magari è entrata acqua all'interno, come ha fatto a me quando tutto un tratto è salito stazionare a 1,5-2, poi si arrivi in potenza, non arrivavo da marco a 50 watt questo apparecchio qui. Allora ho dovuto salire sopra, smontare l'antenna con il vento che c'era, ci sono buttato in terra e mi sono, come l'ho smontata, mi è rimasto il piede in mano insieme al cavetto. E tu l'hai fatto bene, però mi sembra strano di quelle vittime, Antonio, di quelle che si avvita la massa, di quelle vite che si trovano anticamente, fatto bene, tutto vulcanizzato, tutto, come è strano. Sembra strano anche a me, non so. Comunque, ho trovato magari i piedi di casa, niente di strano, anche a me è successo, magari forse di attaccare, svitare, attaccare, si sia leggermente mollato, di fargli dopo la saldatura, può capitare, capito, una cosa del genere. Specialmente se cavolo di G8 succede, e il G8 è ancora peggio. Ma prima di tutto io vuoi che non abbia controllato. Io l'ho controllato tutti gli ispettori, tutto quanto, ho rifatto il PL dell'antenna, ho rifatto tutto. Addirittura il PL l'ho messo nuovo. E c'è due stazionari, c'hai. Poi il PL di su o la molla, due sono le cose. Non penso che si sia staccata la massa. No, la massa no, non credo neanche io. Mentre che a me mi ha pegato il palo lì, mi sono accorto avanti questo salito sopra il tetto. Io su questa era questo palo, io ho detto, o sono io che ci vedo male, invece quando guardo bene, in pratica dall'attacco dei tiranti in poi, il palo si è pegato di 3-4 gradi. Insomma è strano che il palo d'acqua piegarsi, e poi sto dicendo, qualche giorno vieni qui te lo faccio vedere, ma qui ci credevo, eppure me l'ha piegato a me il palo. Mi ha pegato dopo che ho ripensato la Mantova, figurati tu. Prima era tranquillo, era dritto, cosa del genere. Adesso è pegato, non sono accorto, infatti l'ho lasciato così. Adesso aspetto che cali il vento e poi intanto i soldi. Guarda che ho un palo nuovo d'acqua, 3 metri, e cerco di farlo salire su dalle scarse, ce la faccio, sarà un casino, sarà una faratura, sarà passare 3 metri di palo così. E avanti! Chi è? Daiti? Buonasera, vi vedo da questa parte in compagnia di Antonello Alessi, avanti. Sì, Santiago 4, Radio 1. Io mi manco lo sento, figurati. C'è una radio proprio una di poco. Non ho capito ma come sia. Qua è Santiago 7, ma Radio 1. Adesso ti sei leggermente più sollevato. Chi sei che non ho capito? Ah, Leone primo. Thank you. prova col microfono che fa così, ma non è che sai cosa si tratta, cosa ne so. Che macchina stai usando? Milano 848. Sì, ma no, stai scendo così, sotto lo basso di... Cioè, a volte quando ti avvicini sei della chiante, addirittura. Adesso va un pochettino meglio, la verità. Capito, Antonio, il Tristar 848. Ah, io ho capito, Midland, figurati. Tristar 848. Un po' vecchiotto come baracchino. Ehi, c'ha le palle. Ok. Comunque, col microfono ti conviene cambiartelo, mi. Evidentemente sei l'apparecchio pedologico con le tue baracchino lì, perché deve avere, deve passare il CNC, deve, come si chiama, nel cursore del, del microfono. E vorrei che riuscirà il nuovo bene di radio. Potrebbe essere anche quello, niente di strano. Avanti già. Sì, Maso, quanti volte stiamo usando da vincere? Non lo so questo malattino, per quattro. Se stai arrivando lui in 5, come mai? Cosa hai fatto? No, non lo so, forse non lo so. Perché adesso ho fatto un lato. Ma in macchina si... Oh, già, sarà. No, tu... Adesso sono del più forte di radio e anche Santiago è salito a 9,5 da 4 kg. No, non è questione di uso, devo guardare il PL, controllare il PL a vedere che magari ha qualcosa in PL. Perché ha cambiato cosa di segnale, Marco ha anche cambiato. Sì, altro che, è passato a Santiago 9, prima era 7, adesso è 9 e ha migliorato anche la radio negli ultimi passaggi. E a me da 4 a 9 e 5 è passato, grazie a Lucia. E a me, anche voi sono arrivato, vabbè, se te ti anni, anche con te sono arrivato. Io con guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Mi aspettate un attimo, cambio la trappaletta e così vedo come funziona il controllo a questo, perché non penso un pezzo nella banda pesante. Non ti riesco mai a provare. A prova, a prova. Io proprio me ne sto per andare, se ti muovi, ci siamo. Ehi, lo sto guardando in foto già, era di quelli della serie che piaceva a me, tutti mi piacevano, gli LMS200, gli Hagen Quinti, i Tristar, i Major, tutti, ma ero povero. Io ho avuto l'LMS200 e l'Hagen Quinti, tutti e due. Lo Smith naturalmente è tipo in multimode, è un po' blando come Smith. Non è che ero povero, sono povero, tuttora sono povero. Vediamo se è rientrato l'amico. Sì, quando ci avrai l'eredità. Ma quale eredità? Appure ricordati già che le eredità sono bestemmiate, portano male. Come andava in pensione, Emmy? Spendi subito i soldi, così almeno non ti bestemmia nessuno. Tu guarda, Marco, tutti quelli che questo periodo sono andati in pensione, erano giusto in tempo, un anno, due anni, e poi pagano sopra. Sì, è come andare in pensione, capito? L'INPS ti bestemmia, appena arrivi in pensione, anziché goderti la vita, ti viene un accidente e così l'INPS non paga nulla, capito? In realtà lo stesso, te la bestemmiano così, quando te le becchi non te le godi, ecco, ti aprivano mille malighinzi. Che cosa? Avanti, allora già, adesso ti sento bene. Arrivo, Adesso sì. Questo è lo stesso, l'ordinato per mettere la farra, è vero, un Intec MP40. Ti sento bene, sei perfetto di radio. Chiaro, chiaro. Allora metto questo alla farra. Metti quello lì, già va bene come apparecchio. Però ogni tanto mi sparisce, questo qua che contatto del microfono. Però ogni tanto manca, mi manca. Eh, vuole passare, aperto il microfono e spostato un po' di disossidante dove c'è il cursore della portante. Vedrai che torna a uscire bene. E la fesseria, quello perché se l'apparecchio è tempo che non lo usi, l'apparecchio, quindi le lamelle si sono ossidate. Ma hai detto dove schiaccio il pulsante, là diciamo? Esatto, sì. E sempre fermi sono questi. Io le cose le ho ordinate su internet, a poco presto, quindi adesso non fa problema. Poi non c'era mai nessuno per questa. Ah beh, io in cambio ci avevo messo, guarda, il 1140 che è stato sopra, con quello che sei riuscito bene già. L'unica cosa se ti fermo i carabinieri si spaventano, dico, a ver che cosa è, a ver che cosa è che stai usando. I carabinieri non vanno neanche più rapido, neanche i documenti quando ti fermano. Sì, ma prima era una cosa allucinante. Come vedevano l'antenna, immediatamente la paletta di Bonigani. Adesso voglio non dire sera più niente a nessuno. Capito? Sì, una volta un amico ci aveva un palazzino noioso in macchina, dai. L'hanno fermato, per quel poco c'è questa anche la macchina. Sì, io credo, se non c'è il patentino non lo può usare. Magari ha incontrato qualche carabiniere, l'allenatore che ne capisce qualcosa, se l'hanno fatto indietro un nuovo uomo. Sì, allora, riprendete, dai, buonasera, se sentite tutti quanti, se io adesso continuo nelle mie opere, ci sentiamo ora del tutto, Ciao, ciao a tutti, dai, ci sentiamo, lo sto chiedendo anch'io, dai, buona serata a tutti, ciao. Ciao Gianni, ci sentiamo, stai bene. Buona passeggiata per il cane, buon tutto. Io non posso neanche muovermi perché c'è una signora che non sta bene, quindi devo stare a casa, qui. E non posso la cucina, figurati. Il costruttore mi porta la spesa e la bagliere. Ciao Gianni, ci sentiamo, dai, anche l'amico che ha fatto le prove. Antonè, Trissar 848 c'era anche color grigio acciaio, no? Chiaro. E c'era tutto, banda laterale, tutto bande, fine coax, addirittura aveva la potenza regolabile in tre posizioni alle petta. Come c'era anche il coso, c'era la... L'OMC200 ce l'ha, perché l'ha portato l'altro giorno Antonio di qua a casa perché gli era arrivato uno e c'era la lovetta, la potenza, cioè Love, Mid e HI. Poi ho visto uno ieri, non mi ricordo, non è 200 ma l'altro modello, sono precisi. 100 euro stanno vendendo. Poi questo chassis uguale, questa forma qua uguale ce l'aveva il Lafayette 2400 FM uguale, di colore chiaro. È vero. Comunque ho notato adesso che un bel jet si sta vendendo il 2009, quello nuovo, si sta comprando il vecchio, donna. Le volte che c'era qualche partita di 2009 messa male. No, chi, come? Ripeti all'inizio, cosa hai detto? Chi l'ha preso il 2009? Allora, c'è gente che si sta vendendo il 2009 nuovo, un nuovo modello. Capito? Per comprarsi il vecchio, il modello vecchio. C'è essere qualche partita di 2009, di quelli nuovi, che deve essere sono difettosi. Ah, ma tu stai dicendo il 2009 versione 2023, cioè quello che c'ha la buccia del 2009 classico, però dentro è tutto, è tipo il CRT 6009 oppure l'Anitone 5555, c'è una scheda piccola, tutta SMD, sì, c'ha tante funzioni, però sai qual è il problema? Che molti anche non lo sanno usare, perché lì è veramente difficile con quel display di canali chiamare tutte le funzioni di menu, non ne capisci niente. Io ho visto i video su YouTube, è un caos, perché c'ha tutte le funzioni che può avere il CRT 6009, però se non c'hai i pulsanti, i tasti, cioè come cavolo reattivi? Ti devi azzuffare, spegnere, riaccendere per attivare una funzione. È un casino, me l'ho visto, è un macello. Sì, sì, l'ho avuto anch'io, simile a quello che stai dicendo tu, già te lo dico, mi aveva dato un altalino prima di comprarmi il Gimbot, dicevo 40, c'avevo quello, era, l'avevo venduto a Tonino, cambiava, il frontalino, i dischi di montavano da arancione, al celeste, non mi ricordo cosa, eccetera, eccetera, c'avevo un sacco di funzioni, c'avevo, era un pausino, se non lo sapevi usare, già l'ho avuto anch'io. È un casino che mi parlava perché monta i finali dello stereo, sai, quell'apparecchio, non monta il classico papaya della Midland con la pettine, monta il finale audio del stereo acquario, quello che ha 5 piedini. E che finali è? Non ce l'ho presente, 5 piedini, no, non lo so. Ma dico, quello che hai visto tu, no, che ha preso Tonino, è una cosa, ma tu devi vedere il 3009, con l'aspetto del 3009 vecchio, con tutte quelle funzioni lì nascoste, che devi cercare dal display di capire che funzione è messa, è un caos, quello è un caos. O te lo usi normale, come fosse un normale 3009, ma se devi fare le funzioni speciali, quello è veramente una rogna. Ho capito. No, per il TDA comunque 2003, il TDA 2003 e il TDA 2002 li montava lì, utilizzavano gli impianti stereo e anche gli amplificatori di una volta, di quelli, sono 25 watt ognuno che là fuori come finale, che è audio. Capito? Purtroppo qua sotto non c'è più niente, Torino non c'è niente, se vai lì sembra che stai andando a Platanora, perché lui ci passa sopra tutti buttati, figurati. Sono qua, stavo cercando di attivare una funzione qua dello smartphone. Ok, vediamo se funziona. Che palle, consenti o non consentire? No, vediamo, non funziona niente. Hai una buona? Telefoni, sono una voglia, telefoni quelli dell'ultima generazione, e a poche le funzioni. Clicca, clicca, clicca. Via. Antonello, dimmi tutto. Io, vabbè, adesso stacco, tanto mi sto distraendo, così mi faccio sta cosettina al computer e poi ci sentiremo con calma, dai. Ah, ho il piacere di annunciarti che l'installazione dell'antenna che avevamo fatto, la Energy, ha compiuto oggi 10 anni, un'antenna di Kikia 10 anni e ancora funziona. Abbiamo fatto un bel lavoro, guarda che molte altre persone, almeno 3 se non 4, l'hanno buttata quella dopo pochi mesi. Avevamo lui, siamo stati fortunati, io ne ho avuto 2 di quelle antenne, io te lo ricordi, non l'ho buttata io, anzi le ho guardate, una c'era Mario, come si chiama, quello della Belghiera, l'altra non mi ricordo che la pensi l'altra, adesso c'ho quella ricordo di la mezz'onda, la 26 e 29, che mi ha regalata Calvino di Trattamona, quella l'ho scesa giù ieri a Giovanna, l'ho scesa, l'ho smontata, l'ho pulita bene, l'ho scesa a casa sua, l'ho lasciata sopra il tetto per la luce, sì, le viti, eccetera, eccetera, capito? Però funziona benissimo, funziona 1-1, i treni sono qua, i treni. Ma infatti io andando da Eurospin, passando dal Conti, ho visto 2 antenne verticali lunghe, sembravano per la 27, 32, quindi una di Giovanna l'antenna, così è. Quando ho rimesso posto la Mantova, l'ho lasciata a fianco, l'ho lasciata, capito? Poi ho ho smontato l'antenna la X300, pulita bene, ho fatto tutto l'osilo che c'era, anche l'acqua, era piena d'acqua, che sembrava una piscina, sembrava bene, ho pulita bene con la stanza, eccetera, eccetera, poi via, e ce l'ho rimessa su, la X300 e la Mercury l'ho smontata l'altro giorno dal petto, ho sentito un vento che c'era, e ho tolto una, messo la buona e quella lì l'ho smontata, l'ho scesa in Ferrari Giovanna ieri sera, appena dopo il cavo devo parlare proprio con lui, no, per farmi la calata, così almeno appena c'è tempo faccio la mano da qualcuno, perché così non è che se posso andare a tirare il cavo, no, infatti che devo togliere il cavo da tipo quello grosso, a posto di quello lì ci metto le 15-48 lente, ci metto per la TV, gli lascio quello fino alla parabola, tanto Giovanna parabola non l'ha mai guardato in vita sua, così me lo scusa per la tira anche lei, faccio due buchi dalla parte opposta della X200 e almeno anche lei modula. Io, dove la parabola? Qua non ci penso, qua da quando erano iniziati i lavori avevo tolto tutto, l'antenna PMR che era quella UHF, avevo tolto la parabola del satellite, tutto ci ho buttato, no, la buttata no, l'antenna PMR ce l'ho, è nuova, è la Sirio, com'era quella Sirio? Quella corta corta, tre quarti d'onda, J-Pol, piccoletta, naturalmente rende poco perché è in basso, cioè al primo piano risulta. Invece la parabola del satellite proprio l'ho buttata, non usiamo più, capito, roba tipo Sky, quella roba lì, no. Neanche io uso Sky, io ho gli strumenti per fare il puntamento, ce l'ho buttati qua a casa, ce l'ho buttati, non ho buttati più, salendo, soprattutto la prima salivo al centro storico e installavo la parabola, adesso non ci sarò più in quei tetti. Da solo la bella volta da parte da parabole, ormai ho 60 anni, questo argomento è tutto mio, mi sentiamo la roba mia, però per altra gente non mi fido più, capito? A parte che ho problemi di come si chiama al collo, hai capito? Mi viene il coso, il capogiro a volte. E quello è il problema, una volta ero tranquillo, da quando ho fatto il vaccino che c'erano tutti questi problemi, infatti già l'hai visto adesso la stagione che l'hanno denunciata, deve pagare tutti quelli che ha fatto danno. Vedremo adesso un po' chi tenderà la causa. Ti volevo dire, Antone, ti si è schiarita la modulazione? Prima era tutta come sporca, saturata, un po', sì, adesso di botto si è schiarita, cosa hai toccato? La potenza, sono sceso di 10 watt, da 50 e oltre sono sceso di 10, c'ho 40 watt tondi. Ma così esci bene, così sei tu, capito, è proprio chiara la voce. Prima te la peggiora tantissimo per avere poi cosa un Santiago in più. Ma io ho lavorato sempre con questi vatti qua, però sto usando il microfono normale, non sto usando il microfono amplificato, capito? Perché se uso il microfono amplificato si sente la TV di canale di Simona. Ma mi pare che quando usi l'amplificato alle volte ti si sente una ventola che è micidiale, terribile, sembra una turbina, sembra. La ventola dell'alimentatore cinese. Non ho più visto mica la cosa di quell'alimentatore lì. Volevo comprarne un altro a 50 ampere e invece non me ne so più. Sono spariti quegli alimentatori. Allora, ho comprato da città mercato. Ah, da muraia, però guarda che su eBay li trovi, c'è un venditore che ce li dovrebbe avere sempre, c'era il modello da 50 ampere che avevano tutti, io ho preso da 80 ampere, poi magari non saranno reali, però meglio che 50, insomma. E poi avranno fatto il modello anche da 100 ampere, credo. Quello va bene per usare i lineari, mi hai capito? Quei lineari belli grossi, di 750, 12 volt o 550, per quello vanno bene quei lineari. Sì, e comunque confermo, la ventola è molto rumorosa. È molto rumorosa quella ventola lì. Si sentì proprio, non che vibra, no, non vibra, è il sibilo della ventola, dai, perché sposta molta aria. Però visto che se lo usi in modo normale, resta freddo quell'alimentatore, quindi la ventola la puoi anche staccare. Io gli avevo misurato la temperatura con sui componenti anche, con quella pistola infrarossi che legge la temperatura non corporea dell'uomo, anche dei cibi che cuoci, è presente, tutto. Già ho capito. Quella laser. Quella che è laser infrarossi, c'è un laser per puntare il punto, no? E vedevo che rimaneva sempre freddo, cioè ben al di sotto della temperatura anche corporea, per dire, no? 37 gradi. E ho detto, allora tanto vale scollegarla, non l'ho fatto, per lasciarlo originale. Però volendo si può fare, dai. Naturalmente non daranno le ampere dichiarate, cioè quello da 50 magari ne darà 30, però è già buono, quindi quello da 80 magari ne darà un po' la metà o poco più, e mi ricordo del modello da 100 ampere, poi bisogna vedere se dentro i componenti li hanno cambiati o se sono uguali, ed è una buffonatura questa di 100 ampere. Se tanto avranno cambiato i componenti, non è che per erogare tu i 100 ampere è un meme, figurati. Io c'ho quello, l'alimentatore del W2001, quello transistor, quello eroga 24 volt e dovrebbe dare intorno ai 40 ampere, dovrebbe dare. C'è una fiumana di gente che sta scendendo tutta al centro, tra bancarelle e concerti, li sento passare. Sì, stasera c'è il coso, c'è il concerto di Piazza d'Italia, c'è. E le bancarelle ci sono, stasera c'è Cristian, quello del circolo, prendendo panini. Allora, ecco, alimentatore switching 12 volt, vediamo se trovo il venditore, lo stesso venditore, secondo me è questo, 12 volt 100 ampere, 24,99 euro, quindi 25 euro più 6 euro di spedizione, 25 più 6, 31 euro. E vediamo se il venditore è quello, se lo riconosco. Prezzo in grosso shop, presumo che sia quello, non lo so, ha cambiato il nome però, ha cambiato il nome del venditore, ma è quello, vedi, gli stessi già, vedi, 12 volte 80 ampere, quello che ho io, eccetera eccetera, i prezzi sono buoni. Sono buoni, sì, sono buoni, sì. Anche perché mi siamo messi soldi per comprare, per fare la spesa, roba del genere. Questo mese ho pagato il gas, luce, acqua, una ribazzinata di 150 euro di luce, adesso mi sono arrivati, figurati, poi ho 85 euro di acqua, perché c'ho il depuratore, quello che ci fa l'acqua frizzante e l'acqua normale. Poi il gas, figurati. Questo mese è stato sanguinario e anche per noi, capito? È stato abbastanza sanguinario, quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che spendiamo. Sì, sì, ce li hanno sempre comunque, il venditore è quello lì, credo abbia cambiato il nome del negozio, ma magari è sempre quello. Quindi leggo 170 venduti e ne ha tanti, me ne ordina qualche migliaio e li vende a prezzi buoni. Il mio costa da 80 ampere 21,99, quindi 22 euro, più la spedizione, vabbè. Già è buono, già è buono. A voglia. sì, ciò che è, quello, da ripararmi l'alimentatore, quello che avevo una volta nel tempo, quello autocostruito, quello che pesa un becker, che c'è quel trasformatore. E poi d'estate, ogni volta d'estate partivo ai ponti di Rio, si mi è girato il male, ho preso e l'ho lasciato così, ce la faccio ogni volta, cazzo, a cambiare i ponti di Rio, cazzo. Quando salta, ma cosa l'ho fatto è quella, e comincia a fare giù. Scusa Antonio, che c'ho una narice chiusa, mamma mia, non riesco a respirare per una narice. Allora, 12 volt 50 ampere, c'è ancora da 50 ampere, ce l'hanno sempre, è sempre il solito venditore, tutti ce li ha, il 50, l'80, il 100. Lo sai perché io da muraia avevo provato a comprarli, però arrivavo lì e avevano dei modelli minuscoli, 20 ampere, 10 ampere, cosa mini volt, erano piccoli. Praticamente quelli grossi non li trovavi perché li vendevano subito da muraia, capito? E infatti io ho comprato il primo, era da 30 ampere, cioè questo da lui era 30, l'altro era da 40, quello da 40 come ha attaccato il primo cominciava a fischiare. Cazzo, ho detto, che cazzo c'è questo alimentatore? Ho preso, ho messo quello da 30 e l'altro da 40 l'ho prestato, l'ho regalato a quello che mi ha all'ello, l'avevo regalato, l'ho dato quello, la canna da pesca e il baracchino, quello che avevo comprato, quel famoso baracchino che mi è venuto 76 euro quando c'era il Covid. Il 50 ampere costa 15,50 solo, 15,50 euro, cavolo. Certo, non ha strumentazione, non c'è nulla, devi mettere il cavo tu, però il mio non l'ho più usato, l'Antonè, lo sai. L'ho messo, sì, ogni tanto controllo che funzioni, controllo la tensione, però poi lo piego bene, lo chiudo nell'armadio, è sempre lì. E alla fine, tanto io non sono tipo linea romane, che sto sempre con linearoni, no? E quindi, tanto più che rumoroso, quindi ho la ventola, la stacco, però non lo voglio sciupare, lo voglio lasciare originale. Ah beh, io c'ho anche il PS10-12 che mi avevo regalato, figurati, ho detto, c'è proprio questo alimentatore, ho detto dammelo, sarà 10 ampere, da quanto mi ricordo io, mi va applicato bene per provarmi a riparare il passato 2009, questo genere, anche è troppo grosso, perché se il secondo incontro che fai ti fa partire tutto, quindi adesso ne busco una muraglia di quelli che già c'è da 2 ampere, 2-3 ampere, così almeno quando faccio le riparazioni non rischio di bruciare niente, capito? Se dovesse succedere un corto gli metto una lamparina come si faceva una volta e se accende la lamparina non mi brucia nulla. Kappa, oh yeah. Bene, Antonè, da quasi, se non sto computer, ti ho detto, sempre dico, io chiudiamo, e poi non chiudo mai. Faccio questa cosetta al computer, così se lo sbatto nel cassetto, dove giusto che stia. E ci sentiamo quando capita, ok. Quindi, ti ho detto, 10 anni, l'antenna ha compiuto 10 anni, l'installazione è fatta da noi, però, tutto isolato, ti dico, quanto è che avevamo consumato? Mi pare una confezione e mezza di nastro agglomerato, di nastro agglomerante. Una confezione e mezza, mi sembra che era una confezione proprio giusta, un rotolo di quella, il nastro vulcanizzante più il nastro adesivo, il nastro isolante, perché ci avevamo messo il nastro isolante poi sopra. Non ho trovato mai problemi con l'antenna, è sempre stata un bombo. L'unica cosa che quando tu sei sopra il tetto, che tu c'è il tetto in salita, c'avevi paura che ci scendevo giù per sbaglio. Però il lavoro già l'abbiamo fatto bene. Sì, gliel'ho raccontato stasera, già gli ho ribadito che tu eri salito sul gabbiottolo dalla scala. E io, come ti ho visto sopravvivere, a te, e avevo le mani in testa, ho detto attento a quei cadere. Allora chissà, sempre può capitare un capogiro, sai, una cervicale, chissà, se un capogiro per dire equilibrio, lì c'è il coso a spiovente, no? Che va verso la strada e ci fa il volo di quattro piani, perché sono lì, c'è rialzato, poi uno, due, tre, e praticamente il terrazzo risulta il quarto piano. Ed è un bel volo, eh. È un bel volo, sì. Anche qua dove sono io, la stessa identica cosa, non è cambiato molto. Vabbè, io salgo con la scaletta piccolina, quindi mi porto la scala appresso e la scala me la metto proprio attaccata all'antenna. Io sono pari dove c'è la base della Mantova, quindi non ho nessun problema e lavoro benissimo, capito? Ok Antonio, dai, e allora quelli per me e ci sentiamo quando capita. Poi quel numero di telefono non l'ho ancora trascritto, ce l'ho sul foglietto, non l'ho ancora trascritto sullo smartphone, capito? Me ne sono dimenticato, abbi pietà. E ciao Antonio, buon proseguimento di serata e buon tutto, e saluti a Simona. Ok, ci sentiamo, dai, ciao Marco, stammi bene, buon tutto, ci sentiamo alle prossime.